Appena l'uomo prende coscienza di esistere e inizia a ragionare, si accorge di non essere padrone del proprio destino, ma di camminare verso la morte. E allora si pone domande di questo tipo: chi sono? Donde vengo? Dove vado? Che senso ha la mia vita in questo mondo? Che ci sto a fare in questo mondo? E cerca di dare una risposta. Ora, la risposta a questa domanda può essere data attraverso due strumenti, due strade. Il primo, fondamentale, è la nostra ragione. E se rispondiamo con la nostra ragione al problema del senso della vita, noi diciamo che abbiamo scoperto o inventato magari una religione naturale. Ma nella storia è successo anche che qualcuno, qualche personaggio magari importante, si sia presentato come portavoce di Dio, uno che risponde a nome di Dio al problema del senso della vita. Questa è la seconda strada che l'uomo ha per risolvere il problema, sempre che questo tizio, questo personaggio che si definisce portavoce di Dio, sia proprio portavoce di Dio. In questo caso, se qualcuno crede a questo personaggio, nasce una religione che pretende di essere rivelata, cioè pretende di portare al problema del senso della vita niente meno che una risposta proveniente da Dio. Naturalmente, per essere creduto, questo portavoce di Dio, questo tizio che si dice portavoce di Dio, deve presentare delle garanzie che l'ascoltatore ritenga sufficienti per potergli credere. In questo caso, questo portavoce di Dio lo si chiama anche profeta e fonda una religione che chiamiamo rivelata. Perché ci sia una religione rivelata, dunque, ci vuole uno che si presenti come profeta di Dio, portavoce di Dio, e degli altri che gli credano. Il cristianesimo, perché noi vogliamo fare un corso radiofonico sui fondamenti del cristianesimo, il cristianesimo si presenta, pretende di essere una religione rivelata. Il profeta, il portavoce di Dio del cristianesimo è Gesù di Nazaret, che ha portato come garanzia per essere creduto la sua risurrezione. Ecco, in estrema sintesi, il discorso sul cristianesimo. E a questo punto il nostro corso potrebbe già dirsi finito, ma credo che chi mi sta ascoltando non sia soddisfatto di una risposta così veloce. E allora noi abbiamo intenzione di presentare i fondamenti del cristianesimo un po' più in disteso, in modo un po' più completo. E siccome presumo che chi mi ascolta abbia già sentito altre volte parlare di cristianesimo, allora mi permetto di fargli presente che per presentare il cristianesimo, nella storia passata, i nostri padri cristiani, i nostri padri nella fede, hanno usato due strade differenti. Una strada più filosofica, più intellettuale, se vogliamo, e una strada più storica, più concreta, forse anche più semplice. Vediamo bene, dato che queste due strade sono conosciute, ma soprattutto è conosciuta la prima, vediamo meglio come si sviluppa, come si può sviluppare una presentazione del cristianesimo, e poi tra queste due strade vedremo quale scegliere. Aggiungerò però che esiste anche una terza strada che hanno messo a punto recentemente e che sinceramente mi lascia molto perplesso. La prima strada, il primo modo di presentare il cristianesimo è stato messo a punto ad Alessandria d'Egitto nel III secolo, verso gli anni 180 d.C. Ad Alessandria c'era una grande scuola di cristianesimo, una scuola di teologia chiamata Didascaleion. Insegnavano in questa scuola un certo Panteno, Clemente di Alessandria e poi il grande Origene e poi in seguito tanti altri. Questa scuola di teologia si rivolgeva a persone colte, perché Alessandria d'Egitto allora era una delle grandi capitali della cultura e dunque hanno dovuto presentare il cristianesimo a delle persone istruite, dotte di cultura greca, di cultura che si dice ellenistica, a origine dai tempi di Alessandro Magno, e allora sono partiti da Dio e hanno fatto il seguente ragionamento: se Dio parla, tu gli devi credere. Ma di fatto Dio ha parlato, dunque tu gli devi credere. E allora si dilungano a dimostrare che di fatto Dio ha parlato. Il metodo, più in dettaglio, si può articolare così. Prima di tutto, ti dimostro che Dio esiste. E per dimostrarti che Dio esiste vado a scomodare le prove razionali. In antico le prove classiche erano quelle portate da Aristotele. Esiste il moto, per esempio, eccone una. Tutto ciò che si muove è mosso da un altro, non posso andare all'infinito in questi motori e mi fermo ad un primo che chiamo motore immobile. Oppure, ogni effetto suppone una causa, non posso andare all'infinito nella determinazione di queste cause e allora mi devo fermare ad una causa prima che ha prodotto tutto e che chiamo Dio. E così avanti. Questo Dio è perfetto, è eterno, è onnipotente, perché ha creato tutto, ed essendo onnipotente può certamente parlare. Può parlare lui, perché se ha creato me, quindi posso parlare io, figurarsi che se non può parlare lui. Non solo può parlare, ma ecco il salto, di fatto ha parlato. Questo Dio ha parlato prima di tutto attraverso la creazione. Poi ha parlato attraverso Mosè e i profeti. E qui abbiamo la rivelazione di Dio contenuta nell'Antico Testamento. Questa rivelazione di Dio converge a stabilire che esisterà, che verrà un Messia. Gesù di Nazareth è il Messia predetto dall'Antico Testamento e quindi Gesù di Nazareth parla a nome di Dio e dice questo, questo, questo e quest'altro, cioè qui si inserisce tutto il cristianesimo. Questo schema ebbe molto seguito nel pensiero cristiano. In particolare ebbe molto seguito in Occidente. È lo schema che si usava, per esempio, nel Catechismo di Pio X. Se ricordate, la prima domanda del Catechismo era: chi ci ha creato? E la risposta era: ci ha creato Dio. Poi, seconda domanda: chi è Dio? E si rispondeva: Dio è l'essere perfettissimo, creatore e Signore del cielo e della terra. Dunque, questo metodo parte da Dio, Dio che può parlare, Dio che di fatto ha parlato attraverso l'Antico Testamento, Dio definitivamente ha parlato attraverso Gesù, l'Antico Testamento parla di Gesù, è un grande messaggio su Gesù, il quale Gesù ha detto questo e quest'altro, cioè tutto il cristianesimo. Questo metodo, validissimo, se il cristianesimo c'è in Occidente, è proprio ancora grazie a questo metodo, oggi ha alcune difficoltà. Oggi lo si segue male. Perché? Prima di tutto, ma è sicuro che Dio c'è? Oggi soprattutto i giovani sono impregnati di ateismo. Come si fa a dimostrare che Dio c'è? Poi queste dimostrazioni tengono. Oggi, malcontati, nel mondo ci sono 400 milioni di atei. Tutti stupidi? Oppure queste prove dell'esistenza di Dio non sono così convincenti come a prima vista possono sembrare? Poi questo discorso razionale lascia un po' freddi. È un Dio un po' troppo astratto questo, è un Dio costruito dal cervello umano, e quando dà fastidio, soprattutto in campo morale, a questo Dio si restringe la nicchia a nostro piacimento, perché è largo come il cervello dell'uomo. Poi la seconda difficoltà di questo metodo è di stabilire se è vero che Dio ha parlato a Mosè. E oggi il discorso va in crisi. Primo, perché al limite c'è anche qualcuno che osa dire che Mosè non è esistito. Ma anche se fosse esistito, come io penso, come facciamo a dire che Dio ha parlato a Mosè? I libri dell'Antico Testamento che raccontano questo sono troppo lontani dai fatti. Non vorrei scandalizzare nessuno dicendo che i cinque libri attribuiti a Mosè, il cosiddetto Pentateuco, non l'ha scritto Mosè, almeno come ce l'abbiamo noi oggi. E poi Mosè sapeva già scrivere quei tempi? Il Pentateuco, così come l'abbiamo oggi almeno, è stato scritto molti secoli dopo. Ma allora non sarà che hanno attribuito a Mosè tutta sta storia di aver visto Dio, quando in realtà se ne sono serviti solo per poter dar più credito a questi libri messi in bella da Esdra nel V secolo avanti Cristo, mentre Mosè sarebbe vissuto, ma non sappiamo bene quando, ma comunque poniamo verso il 1200 avanti Cristo, ma così è la data che spesse volte danno, 1200, 1250, ma non è assolutamente sicuro. E poi la terza affermazione: Dio ha parlato attraverso Gesù, l'Antico Testamento parla del Messia e Gesù è il Messia perché realizza tutte le profezie dell'Antico Testamento, ma è così sicuro? Se fosse così sicuro che l'Antico Testamento parla di Gesù, perché gli ebrei osservanti, che studiano giorno e notte senza interruzioni, che non fanno un minuto di straordinario per studiare l'Antico Testamento, non si fanno cristiani? Sono tutti malafede costoro? Oppure non è così evidente che l'Antico Testamento parli di Gesù? Per queste ragioni, questa strada oggi tira poco. Se ne accorgono, lo sanno tutti i catechisti, tutti i professori di religione, che hanno constatato la difficoltà a fare religione o insegnare catechismo con questo metodo. E allora, non conoscendo il metodo storico di cui parleremo fra un momento, questi professori di religione, questi catechisti, sono ricorsi a dei metodi esperienziali, metodi che giocano sull'esperienza di chi ascolta, sull'insicurezza, si basano spesso su ragionamenti piuttosto di emozione, toccano l'emotività, toccano il sentimento, perché hanno voluto reagire ad una via troppo razionale, troppo logica, via che rischiava di presentare il cristianesimo come un teorema di geometria, ed è difficile che si dia la vita per un teorema di geometria, è difficile che ci si impegni seriamente nella propria vita a vivere dei teoremi di geometria. Era un cristianesimo un po' troppo razionale. E allora, poiché ho detto, questi professori di religione non erano a conoscenza di questa strada storica di cui parlerò dopo, sono ricorsi a questi metodi che, primo, ho chiamato esperienziali, adesso chiamo antropologici. Vorrei sintetizzarli brevemente, anche se ce ne sono molti, ma vediamo di raccogliere quello che hanno di comune, e facendovi notare che oggi sono molto usati. Per esempio, il ragionamento centrale di questi metodi è questo: l'uomo deve realizzarsi. Certo, ciascuno di noi cerca di realizzarsi. Bene, e io allora ti dico, ecco la forza dell'affermazione del catechista: Cristo è la realizzazione dell'uomo. Dunque, se vuoi realizzarti, hai un solo modo: credere in Cristo. Questo è il ragionamento fatto velocemente. Vediamo di farlo più in dettaglio, ma soprattutto applichiamolo al metodo che si usa con i ragazzi, ma anche qualche volta con degli adulti non molto critici, persone piuttosto semplici, piuttosto ingenue, se vogliamo. Il ragionamento che fanno è questo: tu, e parlo per i ragazzi, tu ragazzo che mi ascolti, sei insicuro. E il ragazzo dice: è proprio vero, è così. In profondità sei solo. Per vivere la tua vita, le tue decisioni te le devi prendere tu. I tuoi genitori, beh, lasciamo perdere, fanno quello che possono magari, ma certo non ti capiscono. Tuoi amici, oh per carità, in profondità non ne hai nessuno. Gli adulti ti disprezzano e tu rispondi con la stessa cortesia. Questa insicurezza che tu hai, questa paura del domani, questo timore di non realizzarti, questo timore di fallire, ecco, tutto questo ce l'hai dentro, vero? E l'educatore dice: bene, guarda ragazzo, tu mi credi? E il ragazzo certo che gli crede. L'educatore ha detto esattamente quello che il ragazzo prova. Come fa l'educatore a saperlo quello che il ragazzo prova? Ma è semplice: se ha un minimo di esperienza di giovani, se ha parlato con qualche giovane, oppure anche se ha letto qualche libro sul disagio giovanile oggi, ha tanti argomenti per far vedere che i ragazzi sono insicuri, incerti, instabili. E allora il ragazzo dice: perbacco, quello lì, il mio educatore, sì che mi capisce. I miei genitori, beh, pazienza, ma lui sì che è uno in gamba. Ed allora il ragazzo è spontaneamente portato a credere a questo insegnante, a questo maestro. E a questo punto il maestro gli dice: vedi amico, se tu credi in Cristo, tutti i tuoi problemi sono risolti. E lì per lì il ragazzo anche ci crede. Certe persone semplici ci credono. Ma poi, col passar del tempo, questo metodo va in crisi. Quindi io non dico che non possa servire per agganciare delle persone, come oggi si dice, cerchiamo di agganciarle. Ma una volta che l'hai agganciato, devi fondarlo più seriamente, perché questo metodo si espone alle seguenti obiezioni. Prima: ma perché riferirsi proprio a Gesù Cristo per risolvere i problemi dell'esistenza? Gesù Cristo, Gesù di Nazareth, è un ebreo vissuto 2000 anni fa, con problemi totalmente diversi dai miei, con una società contadina, di pastori, con una società primitiva. I problemi che ho io oggi, ma Gesù manco se li è sognati. La pressione sessuale, per esempio, che oggi ho io. Ma come, Gesù ha preso delle posizioni troppo rigide. Ma non sono poi così ben sicuro che Gesù risolve i problemi della mia esistenza, soprattutto quando il ragazzo, crescendo, comincia a avere notevoli tentazioni sessuali, comincia a avere crisi affettive. Allora comincia a dubitare che Gesù veramente risolva i suoi problemi, anche perché gli avevano promesso gioia, e lui poi vede che non sempre ha questa gioia, anzi certe volte è angustiato dalla fede cristiana, ci soffre, ci sta male, perché non riesce a vivere come Gesù Cristo vuole, e allora si scoraggia. Ma poi c'è un secondo problema, una seconda obiezione: Ma che sicurezza abbiamo che il pensiero di Gesù non sia stato manipolato? Gesù non ha scritto niente che sia giunto fino a noi. Tutto quello che sappiamo su di lui l'ha scritto gli altri. Ma avranno scritto il vero? Ecco i problemi che un giovane si pone a una certa età. E allora ha la forte tentazione di abbandonare tutto. Se il catechista, chi lo educa nel cristianesimo, non sa rispondere a queste obiezioni, l'insegnamento rimane monco, perché è privo di motivazioni. Se invece tenta di rispondere, lascia inevitabilmente, soprattutto nei giovani, l'impressione di volerli convertire, di volerli indottrinare. E i giovani reagiscono a questo, non si lasciano indottrinare facilmente. A meno che questo insegnante non abbia una tale onestà intellettuale e un tale ascendente sopra i giovani da godere pienamente della loro fiducia, per cui i giovani accettano sulla parola di questo educatore, ma non hanno delle ragioni valide, e soprattutto quando devono discutere con altri il loro cristianesimo dicono ma io lo sento dentro, e il ragazzo vicino, suo amico che non lo sente, cosa fa? Dice ma io non sento niente. E allora come fai ad accettare una cosa così, il cristianesimo così campato in aria, no? È troppo basato sulle abilità logiche o di persuasione del catechista, dell'evangelizzatore. Di modo che coi ragazzini questo metodo funziona, ma a una certa età non funziona più. Questa è una delle ragioni per cui i ragazzini vanno a catechismo, vanno in parrocchia fino a 14, 15, 16 anni, ma poi quando cominciano le grosse crisi, molti salutano e non li vedi mai più. Perché? Perché non avete risposto, non abbiamo risposto a delle domande importanti per la loro vita. E tanto perché abbiate un saggio di questo metodo, vi voglio leggere un volantino, ce ne sono tanti, ma un volantino che gira a volte, o girava in qualche parrocchia, per invitare delle persone ad un corso di catechismo e per far vedere come devono venire, perché Gesù risolve tutti i loro problemi. Cristo è davvero risorto. Ecco l'inizio del volantino, il bel messaggio, il fondamento del cristianesimo, molto bene. E il volantino continua. Fermati e ascolta. È un comando, vero? Tu che soffri la solitudine e non comprendi il senso della vita. Tu che vedi il tuo matrimonio in crisi. Tu che hai un figlio malato e la rabbia nel cuore. Tu che hai lavorato tanto e hai visto il crollo delle tue sicurezze, tu che sei giovane e stai bruciando la tua esistenza, tu che non riesci a comprendere i figli, tu che vuoi approfondire e vivere la tua fede, tu che, puntini, e qui ognuno ci può mettere tutto quello che vuole lui, ed ecco l'annuncio, oggi passa Gesù Cristo per salvare la tua vita. Coraggio, vieni ad ascoltare la buona notizia. Ora, questo potrebbe essere uno specchietto per allodoli, potrebbe essere un aggancio di un annuncio pubblicitario fatto da un commesso viaggiatore che prevede che il prodotto che sta vendendo non tiri granché. Se poi non si fa una costruzione seria, questo discorso inganna le persone. Perché non è mica vero che Gesù Cristo risponda a tutti i nostri problemi. Probabilmente è vero il contrario, che ci pone un problema in più, ed è questo. Vuoi essere fedele a me? Certo, alla lunga, se credi a Lui, risponde al problema del senso della vita e risponde a nome di Dio, dunque ti presenta una risposta autorevole. Ma prima di arrivare ad accettare questa risposta, tu devi pazientemente fondare il discorso cristiano su ben altre basi. Ed è quello che fa proprio l'altra scuola, l'altro modo di presentare il cristianesimo. Questo terzo modo, che in realtà poi storicamente era il secondo modo, è stato messo a punto ad Antiochia. Antiochia era la capitale dell'Asia, una città porto di mare, frequentata da commercianti, contadini, pastori che affluivano lì, gente molto più semplice, ed anche ad Antiochia era sorta una scuola di teologia, anch'essa chiamata Didascaleion, perché Didascaleion vuol dire sostanzialmente scuola. I fondatori, i pensatori principali di questa scuola erano Sant'Efrem, San Giovanni Crisostomo, Teodoro di Mopsuestia e altri. Queste persone si dovevano rivolgere a gente non colta, spesso di origine semita, Antiochia in Siria, poco inclini al ragionamento astratto, abituate a pensare ad un Dio che agisce concretamente nella storia degli uomini, hanno presentato il cristianesimo in altra maniera. Invece di partire da Dio, sono partiti dall'esistenza storica di un uomo. Hanno cominciato col dire: è esistito un uomo di nome Gesù di Nazareth. Notate che questo metodo può funzionare ancora oggi e sarà il metodo che noi useremo, vi dirò anche perché. E allora, come fai a sapere che Gesù è esistito? Lo sappiamo dai documenti. È esistito un uomo di nome Gesù di Nazareth. I documenti sono chiari. Questo uomo ha affermato di essere figlio di Dio. E va bene, lo posso affermare anch'io di essere figlio di Dio, e dopo che l'ho affermato voi mi credete solo perché io l'ho affermato? Quando Gesù ha detto sono figlio di Dio, i suoi ascoltatori gli hanno chiesto: scusa, ma che garanzia ci porti di dire il vero, di essere veramente figlio di Dio? E Gesù ha portato come garanzia la sua risurrezione. I suoi discepoli hanno ascoltato questa affermazione, questa garanzia, e quando Gesù è risorto, se è risorto, ma questo ce lo porremo dopo come domanda, quando lui è risorto, così loro dicono, sono andati in giro proprio a predicare la risurrezione di Gesù. Si sono presentati come testimoni della risurrezione, dicono, e questo è scritto nei documenti, è facile da dimostrare, noi abbiamo visto Gesù risorto. Ma allora aveva portato la garanzia della risurrezione per essere creduto. È risorto, dunque è credibile, e noi crediamo in lui. Lui è quello che ha detto di essere, cioè il figlio di Dio. Questo sono andati in giro a raccontare gli apostoli, e questo è facilmente dimostrabile ancora una volta sui documenti. Noi la storia la facciamo sui documenti, per questo questo metodo di Antiochia si chiama anche metodo storico. Ma l'ascoltatore di questi apostoli si pone una domanda: sarà vero che quest'uomo Gesù è risorto? Questi uomini raccontano il vero o raccontano storie? Sono degni di fiducia o no? E allora cominciano ad analizzare se questi uomini, cioè gli apostoli, sono credibili, e di fatto, questo è un altro dato storico, degli uomini, delle persone umane hanno creduto agli apostoli. E queste persone umane, insieme con gli apostoli, hanno dato origine alla Chiesa. Sono persone che, attraverso gli apostoli, hanno creduto in Gesù. Hanno accettato che fosse veramente il Figlio di Dio. Ma a questo punto, se è vero, come loro credono, che Gesù è il Figlio di Dio, ne consegue che, primo, le sue parole vengono da Dio, dunque sono parole vere, Quali parole? Le parole trasmesse dagli apostoli a cui gli ascoltatori hanno deciso di prestare fiducia, perché voi capite che se io decido di prestare fiducia a uno che mi racconta che un uomo è risorto e io non ho mai visto nessuno risorgere, se mi fido e accetto per vero un elefante di queste dimensioni, non ho difficoltà poi ad accettare tutti i moscerini, tutte le piccole affermazioni che questi apostoli mi raccontano. Per esempio, se io accetto che Gesù è risorto, posso anche accettare che Gesù abbia fatto parlare un muto, abbia fatto camminare uno zoppo, eccetera. Posso accettare che Gesù abbia detto questo, abbia detto quest'altro. E posso accettare che Dio sia il Padre di Gesù, e non solo il Padre di Gesù, ma anche il Padre mio. Posso accettare allora che questo Dio sia un Dio di amore e che mi abbia rivelato che il senso della mia vita è un atto di amore a Dio stesso, una risposta di amore a Dio stesso. Ecco che cosa ne viene di conseguenza. Questo Gesù, veramente figlio di Dio, ha detto bla bla bla, cioè ha detto tutto questo. Il cristianesimo dunque si presenta come un atto di fiducia, un atto di fede. Fede non direttamente in Gesù, perché Gesù io non l'ho conosciuto, ma fede negli apostoli che mi hanno tramandato le loro esperienze che hanno fatto di Gesù, quanto Gesù ha fatto, quanto Gesù ha detto, e in particolare mi hanno tramandato la sua risurrezione. Attraverso gli apostoli il mio atto di fede diventa un atto di fede in Gesù che sia veramente il portavoce di Dio, e attraverso Gesù io scelgo di fidarmi di Dio che abbia il diritto di guidare proprio la mia vita. Ecco, in estrema sintesi, il metodo della scuola storica, o come ho detto, di Antiochia. Se diamo un'occhiata ai due metodi di Alessandria e di Antiochia, perché il metodo antropologico esperienziale lo lascio un briciolino da parte, noi vediamo che questi due metodi hanno queste linee di diversità. Il metodo di Alessandria parte da Dio e allora presenta Gesù come il Dio incarnato. Gesù sarebbe in certo senso il marzianino venuto in terra a raccontarci la volontà di Dio. Presentano dunque Gesù in modo discendente, partendo da Dio per arrivare fino a noi uomo, a noi uomini. In questa prospettiva la festa più importante sarebbe il Natale, la festa della incarnazione. E difatti in Occidente questa scuola di Alessandria, vi ho detto prima, ha dominato in Occidente. In Occidente la festa più importante è il Natale. Basta sentire i proverbi: Natale coi tuoi, Pasqua con chi vuoi. Basta vedere che la gente a Natale va a messa a mezzanotte, mentre a Pasqua a mezzanotte non ci va a messa, sono molto di meno. La Pasqua è una festa meno sentita che il Natale. Mentre la scuola di Antiochia parte dal Gesù uomo, parte dunque dalla storia, e attraverso la risurrezione di Gesù dice: ma allora Gesù è veramente il figlio di Dio. E così Gesù diventa l'uomo divinizzato. In questa prospettiva è più importante la risurrezione, è più importante la Pasqua. E la tradizione antica aveva sempre detto che la Pasqua era la festa più importante. Difatti la veglia di Natale non si faceva in antico, si faceva solo la veglia di Pasqua. Poi solo in tempi successivi hanno fatto la veglia di Natale. Conclusione. Da quello che ho esposto avete visto che noi preferiamo oggi percorrere la via storica. Perché? Ma perché questa via storica si fonda essenzialmente su dei documenti. Documenti che non abbiamo prodotto noi. Documenti che noi troviamo dall'antichità, per cui non gioca questa via sulle abilità di chi predica. Chi predica è una persona che mette gli altri a contatto con dei documenti che non ha scritto lui. Chi predica è il povero tubo, chi evangelizza è il povero tubo che mette a contatto con la sorgente. La sorgente sono i documenti storici, i documenti antichi che noi possediamo. Dopo aver messo a contatto con questi documenti, il catechista si toglie e dice: e adesso, con questi apostoli che ha scritto questi documenti, caro amico, veditela tu, perché i casi sono soltanto due: o Gesù è risorto o non è risorto, o ti fidi o non ti fidi degli apostoli. Se ti fidi, accetti il cristianesimo. Se non ti fidi, ciao, amici come prima, io non perdo un minuto a convincerti, perché so già che non posso convincerti, perché un atto di fiducia non si può imporre, la fede non si può dimostrare. Questa strada, dunque, ha il vantaggio che è più rispettosa della libertà della persona. Interpella la persona e gli dice: vuoi oppure non vuoi? Affare tuo. Forse saranno meno i cristiani, ma sapranno esattamente cosa credono e magari giocheranno la vita su un impegno che hanno scelto loro, non in modo cieco, ma l'hanno scelto in base ad una garanzia: Gesù è risorto, gli apostoli che hanno detto questo hanno pagato con la vita, sono morti per la loro convinzione, ma questo discorso noi lo approfondiremo ancora. Certo che oggi, con l'interesse per il documento, con l'amore per la documentazione e con la delusione che c'è, non vorrei fare dei giudizi troppo temerari, ma molta gente non si fida più dei preti, questo metodo funziona meglio. Il metodo di Alessandria andava bene quando l'autorità era forte, in particolare l'autorità paterna era forte, il parroco sapeva più di tutti, ecco, allora il metodo funzionava. Oggi le autorità sono in crisi. Può darsi che questo metodo di Alessandria possa servire in futuro, quando magari l'autorità riscuoterà di nuovo fiducia, ma in questo momento le autorità non sono credute, né l'autorità paterna, né l'autorità materna, né l'autorità del parroco, del vescovo o di qualunque altra autorità. Le autorità si sono un po', hanno fatto un po' brutte figure di fronte alla mentalità odierna, di fronte alla gente. E conclusione: se l'autorità è in crisi, bisogna fondare la fede non più sul fatto che io ti dico che è così e dunque è così, ma bisogna fondarla seriamente sui documenti. Mi è capitato qualche volta di sentire qualche anziano che viene lì e dice: sono venuti quei lì, come si chiamano, di lì, Geova, hanno cercato ben di farmi cambiare religione, ma io non voglio mica tradire la religione di mio padre. Questa gente non ha nessuna chiara idea del cristianesimo, non ha nessuna ragione per credere, ma ha un po' la religione del padre, magari morto da 20-30 anni, io non voglio tradire mio padre. E allora si aggrappano ad un'autorità. Oggi i giovani soprattutto non accettano più questo. Ecco la ragione per cui la scuola di religione, la catechesi è andata in crisi, e cerchiamo oggi di rimediare usando il metodo già messo a punto nel terzo secolo dopo Cristo. Quindi quello che noi faremo non è assolutamente una novità, non è una cosa nuova, è solo una novità perché questo metodo era stato un po' dimenticato in Occidente e adesso vedremo di recuperarlo. E vi porto una prova evidentissima che questo metodo era stato dimenticato in Occidente. Se qualcuno di voi ricorda il catechismo di San Pio X, il catechismo che studiavamo da bambini, c'era questa domanda: quali sono i misteri principali della fede? E rispondeva: i misteri principali della fede sono due, unità e trinità di Dio, incarnazione, passione e morte di Gesù Cristo. Come vedete, manca vistosamente la risurrezione. Ma era chiaro che doveva mancare la risurrezione, perché se Gesù, siamo abituati a pensarlo come Dio, per forza Dio non muore e per forza Dio deve risorgere, e quindi la risurrezione è una conseguenza del fatto che Gesù è Dio. Ma se noi rovesciamo le prospettive e cominciamo a pensare ad un Gesù uomo, ne nasce come conseguenza che la risurrezione è proprio ciò che ci permette di capire e di credere a lui che dice di essere figlio di Dio. Ecco dunque il metodo che noi percorreremo in queste conversazioni, molto umili, molto semplici, ma che si fondano sui testi del Nuovo Testamento. E per concludere informo che se qualcuno volesse avere i testi scritti di queste conversazioni per poter seguire meglio, può sempre rivolgersi a noi. Lascio qui l'indirizzo una volta per tutte: Didascaleion è l'antica scuola di cristianesimo, ho ripreso questo nome, via Luserna 16 10 139 Torino. Ripeto, via Luserna 16 10 139 Torino, e può rivolgersi anche a noi per telefono. Il nostro telefono è 011 di prefisso 43 400 81, e così ci avrà a disposizione. Auguro a tutti dunque un buon ascolto, e se c'è qualcosa che non è stato capito, che non è chiaro, potete sempre rivolgervi a noi e noi saremo a vostro servizio. Grazie a tutti dell'ascolto e della pazienza.